fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo in diretta a Risto Radio Convento, di nuovo con i festeggiati di questa lunga notte, di questo lungo sabato sera, ormai sabato notte, Dinner and Dance. Andiamo a conoscere ancora qualcun altro. È il momento di una persona di cui abbiamo sentito parlare tutti, fondamentalmente. No, beh, al di là stasera che insomma ne abbiamo sentito parlare tanto, ma perché porta un nome importante, no? E beh, insomma, musicalmente parlando, una canzone italiana ti si è citata parecchie volte. Certo. Allora, dai, la presentiamo. Benvenuta, come ti chiami? Lisa. Che c'era suspense per il tuo nome, no? Per capire. Lisa, la famosissima canzone Lisa, gli occhi blu. Che infatti non ha più le trecce, perché senza le trecce è la stessa, non sei più. E da quel giorno, cioè da quando è uscita la canzone, lei si è fatta liscia e ha detto: no, mai più io cambierò la mia pettinatura, esatto. Perché mi devo distinguere da quella della canzone. Allora, Lisa, da dove vieni? Padova, benissimo. E cosa ci fai questa sera al convento? Stasera festeggio il mio addio al nubilato. Oh, bello, che si terrà. No, cioè. Addio nubilato si tiene ora. Dicevo, il matrimonio si terrà quando? 24 maggio. 24 maggio con? Sebastiano. Vedi, c'ho il pallino della. Dell'intero. Esatto, dell'intero, del nome intero. Brava, grazie per l'aiuto. Allora, no, tra l'altro volevo. Perché Padova è una città un po', come dire, borderline, tutti bellissima, dicono tutti bellissima. Però un poco conosciuta, cioè poco pubblicizzata, ecco, diciamo così, in quel senso. Dici un po' cosa c'è di bello a Padova, dai. Padova. Facciamo questo piccolo momento geografia e promozione turistica. Ma ti passo tutto. Eh no, perché, cioè, allora, io tutti quelli che ci sono andati dicono bellissima da vedere, però nelle mappe è difficile passarci, no? No, ci sono tante piazze bellissime, Piazza dei Signori, Piazza della Frutta. Certo. Piazza delle Erbe, Prato della Valle con tutte le sue statue, il santo, Santa Giustina, un sacco di chiese importanti. Sono preparate, culturale, certo, quindi dai, culturale e architettonica. Abbiamo un sacco. Castello di Caravelle. La cosa di Giotto mi piace molto, questa definizione tecnica. La definizione tecnica di questa opera di Giotto, la cosa di Giotto. Bello, mi piace. Abbiamo molta cultura. Ma poi, se non ricordo male, anche dal punto di vista universitario non è messa male. Abbiamo vero avvocato, abbiamo giurisprudenza. Abbiamo diverse università. Oh, bene. Dai, che abbiamo parlato anche un po' della vostra città, ci fa piacere ricordarlo, anche perché diciamo che una nostra caratteristica è veramente ospitare chiunque, in parte nord e centro Italia più o meno passano tutti di qui, e quindi ci fa anche piacere ricordare da dove venite. A proposito di compagnia, non sei sola, l'avrete capito, ci vuoi raccontare chi ti ha accompagnata questa sera? Le mie più care amiche, le più bellissime. Allora, addirittura, le più bellissime. Certo. Le più bellissime, che è proprio un termine. Belle e preparate. Oh, che addirittura preparate. Su cosa? Soprattutto intelligenti. In quel senso, colte. Allora ho un avvocato. No, io voglio sapere chi è quella della cosa di Giotto, che penso faccia il la figlia di Giotto è violinista. Violinista. La figlia di Giotto, no, scherzo. Violinista, quindi insomma. E non certo solo, carico. Molte altre cose, anche se psicologa, vero? Vero, cocchina? Non specifichiamo tutte. Un sacco di cose, molto brava. Molto brava. Ok, quindi vai con le presentazioni, così abbiamo conosciamo anche loro. Un ingegnere edile, che non scherziamo, edile. Commercialista. Sì, cioè, cioè non ne interessa come vi chiamate, solo quello che fate, no? Solo perché voglio, dare prestigio. Super soddisfatta. Dare prestigio. Però un geometra e una mia collega che fa la stessa cosa mia. Ok, che fa la stessa cosa tua, che è? Quindi educatrice dei bambini. Oh, perfetto. Portatore di handicap. Sono stata precisissima. Assolutamente. Di handicap, bambini disabili, diversamente abili, perché handicap non si dice più. Esatto, assolutamente, ecco. Sì. In una scuola, in un centro specializzato, dove operate? Alle elementari, quindi proprio sostegno alle elementari. Tra l'altro me l'hai presentato un po' come alla Fiera dell'Est, la canzone. Esatto. Topolino. Esatto, e venne il geometra con l'avvocato, la mia collega, l'ingegnere. Sembrava un po'. Vuoi dirci anche i loro nomi? Le presentiamo. Alla mia sinistra, Stefania. Sì. Ciao. Subito dopo Valentina. Ciao. Valentina, ciao, che è già troppo distratta, Eleonora. Mettiamo. No. Ah, quelli fuori. E infatti guarda che cioè tanti noi restare. No. Secondo me non ti distraggono quelli fuori, ti distrae il talento, che è diverso. Ti distrae il talento, perché c'è del talento e va da sé che insomma vedere il talento è difficile, rimanere, come dire, indifferenti a questo talento. Insomma, quando sì, no, poi quando la gente balla bene, con stile, con eleganza, è difficile, guarda, cioè guarda che coreografia. Ah, beh, guarda poi che, il mucchio, che eh? Momento, guarda il che mucchio. Momento da ricordare, momento da ricordare, bellissimo. E, no. Eleonora, brava, tornavo alle presentazioni e riprendi il filo del discorso. Eleonora 2, Fabiola, Pavi, ok, Manuela e Francesca la Cocca. La Cocca? Come mai la Cocca? Si può dire. Ah, non si può dire, rimane in family, mi dispiace. Ok, rimane tra voi. No, no, infatti dicevo che avete anche provato, come dire, la sensazione di difficoltà che noi viviamo quotidianamente, perché vedi che continuano a parlare, a passare tutti, ed è complicato rimanere concentrati, ma noi rimaniamo. Voglio lavorare questa sera, ho già dato. Sì, dice. No, dice, non è contento di te. Dovevi fare meglio. Tra l'altro, non voglio più datare. Ah, di là di quello. Tra l'altro lui non sa che non sta sentendo nulla di quello che stiamo dicendo, quindi non capisco da dove arrivi il fatto che non gli piace quello che dici. Però insomma lo. Stanno denutando comunque. Sì, è vero, ha ragione. Sì. Ok, bene, sto cercando. Che lingua parla? Non so. Ah, ok. Perfetto. Applauso finale. Ok, allora, torniamo a noi. Lisa, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Il signore fuori. Beh, di là del tuo fan numero uno. Tutti i miei bambini. Quanti sono, tra l'altro? Dai, miei bambini di scuola. Due classi, quindi. Due 40, classi. 40 bambini tosta. Circa. Tosta. Ok, no, aspetta, ne approfitto tra l'altro per chiedere una cosa tecnica. Cioè, nel senso, come operate con loro? Cioè, li seguite fino alla fine delle classi, proprio del percorso scolastico? O avete tutte sempre le prime, sempre le seconde? No, possiamo seguire gli stessi bambini per 3 anni o 5, uh-huh. Oppure cambiare anche ogni anno, dipende dall'esigenza. No, dei ok, quindi non c'è una regola scritta, un modo preciso di gestire. Si punta alla continuità, ma non è una regola. Beh, che ci sta anche dal punto di vista dell'affezione, insomma, diciamo così, il fatto sì. Che quei bambini si affezionino alla persona, benissimo. Corretto. Ok, allora, quindi hai salutato i tuoi bambini. Saluto il signore qui fuori, ciao vecchio! Grande! Sì, che è diventato un po' l'idolo delle folle. Infatti anch'io stavo cercando di capire il perché non usasse anche l'altra mano e adesso ho capito, rivedendo, che non può farlo, non può usarla. Questa sera devo lavorare. Cos'è la borsa? Questi che sta cercando? Non sto capendo i messaggi che vuole mandare, che sono vari ed eventuali. Va bene, ma restiamo fermi e concentrati, ecco, sul motivo che ricordiamo ancora della loro festa, cioè matrimonio. Il futuro matrimonio loro, 24 maggio. Beh, loro, perché voi parteciperete comunque, dopo chiaramente suo. Sì, dicevo, la festa, ecco, la festa è per tutti. La festa non deve finire. Questa è forte, finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire. E poi c'era perché la festa siamo noi. Questa, ecco, quella che avete appena sentito è la nuova numero uno della classifica inglese dei 40 singoli più venduti, ce l'hanno cantata in anteprima. Questa è forte, questa nessuno ha mai capito il potenziale musicale di questa canzone. Questa è potente, vedi che comunque la ricordi. Madonna, copriti. E fa gruppo. Ah, Madonna, che bello. Fa gruppo, vedi, fa compagnia. Ok, allora dicevo, quindi 24 maggio manca poco, un pochino, un mesetto, è tutto pronto? È tutto pronto? Sei. Dai, sei tranquilla? No, beh, nel senso, tranquilla, non sei mai. Felice, un po' in ansia. Però nel senso, è tutto a posto, tutto in ordine. Oh, ok, perfetto. No. Come si dice, tutto a posto, niente in ordine. Bravissimo. Benissimo. Ok, allora in bocca al lupo per il tuo futuro matrimonio, per la tua futura festa. Grazie alle tue amiche che sono state qui con te. Grazie al nostro eroe che piano grazie. Piano sembra che stia ballando la sigla di 9 settimane e mezzo, perché si sta, esatto, si sta togliendo un pezzo alla volta, quindi cerchiamo di chiudere per evitare che vada avanti e si trasformi in un momento poco edificante. E ok, grazie ancora ragazze per essere state con noi e ancora auguri alla nostra Lisa da Padova. Grazie.